Letture di Radio 24. La Sardegna è la prima regione a trasformare in legge i suggerimenti della Boldrini, che in nome di una presunta restituzione del genere invitava a declinare la burocrazia al femminile, usando per le donne termini come sindaca, assessora o presidenta. Ma regolamentare la lingua per legge è una sciocchezza, commenta Gianluigi Beccaria, linguista e membro di prestigiose accademie come la Crusca o i Lincei. Ci aveva provato, senza grande successo, il fascismo, continua Beccaria, imponendo delle multe per evitare termini derivanti da inglese e francese. In un articolo pubblicato sulla Stampa, Stefano Pezzini riporta altri commenti del professor Beccaria sull'argomento. Ciclicamente si assiste a questi venti di politicamente corretto, ma la lingua è qualcosa che vive di vita propria. Non si può imbrigliare per legge. È l'uso, l'abitudine, la familiarità a decretare la nascita di una parola. Premesso che il dibattito sindaca, sindachessa e via dicendo non mi appassiona più di tanto, mi sembra che alcuni termini stiano già entrando nel parlato, altri li trovo un po' grotteschi se declinati al femminile. Lungi da me essere tacciato di maschilismo, ma mentre il termine studentessa è di uso comune, declinare la parola generale in generalessa mi sembra dia una connotazione non proprio positiva. Sembra più la moglie di un generale che non un alto ufficiale, donna del nostro esercito, spiega Beccaria, e conclude: resto dell'idea che la lingua, pur con le sue regole e le sue norme da seguire e rispettare, sia comunque una materia anarchica, difficilmente imbrigliabile in leggi e imposizioni. In ogni caso, ha degli anticorpi in grado di combattere le imposizioni che tendono a renderla brutta. Quello che avete ascoltato era l'articolo di Stefano Pezzini, Impossibile regolamentare le parole per decreto, dalla Stampa del 13 ottobre. Chi ha fatto il militare ricorda come fosse praticamente impossibile reagire a un sopruso da parte di un superiore, ma a volte, raramente, poteva capitare che anche per un sottoposto la giustizia venisse ristabilita, come accadde a Guido Oldani, poeta di fama internazionale, che scrive: sono i giorni della visita militare, perché io sono fra quelli che il militare non l'hanno circumnavigato. Ruotiamo seminudi fra i diversi specialisti medici che ci esaminano. L'otorino mi grida: apri quella bocca di merda. Sono davvero sconcertato, gli rispondo: la bocca di merda ce l'avrà lei. È un attimo. Guardie! Grida. Due divise mi affiancano e mi conducono lungo diversi corridoi. Entriamo, credo, nel tribunale militare. Tutto per direttissima. Presiede un signore in giacca e cravatta. È un ufficiale superiore degli alpini e porta il cappello con la piuma bianca. Di fianco ha la bandiera tricolore e appoggia sul tavolo la mano di cuoio del suo braccio destro artificiale. L'uomo è medaglia d'oro. Muove lentamente la mano sinistra come se stesse dirigendo un coro di montagna. Mi fa raccontare l'accaduto. Lui seduto su una pedana, io in basso di fronte. C'erano molti testimoni, ma non ne convoca neanche uno. Si fida di me. Giudice e accusato si guardano come se fossero amici da sempre. Quasi inimmaginabile una vicenda simile. Avrei voluto forse restare a lungo con lui, ma mi fa liberare subito. Ho provato spesso allergia per le varie giustizie che si incontrano ovunque, ma essere giudicato equamente da un uomo con un passato coraggioso e non certo burocratico è stata un'esperienza di fiducia che ho ancora con me. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Guido Oldani, Processo per direttissima, da Avvenire del 29 settembre. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Letture di Radio 24. Una volta, quando scoprivi che i biglietti per un concerto erano esauriti dopo pochi minuti dall'inizio delle vendite, sapevi benissimo dove erano finiti. Bastava presentarsi davanti all'ingresso dello stadio o del teatro qualche ora prima dell'inizio del concerto per incontrare un esercito di bagarini, esseri bizzarri dotati di superpoteri che li rendevano invisibili alle forze dell'ordine. Ma oggi il bagarinaggio avviene principalmente online, attraverso società di secondary ticketing come ViaGogo e TicketBis, società che operano in modo perfettamente legale e che a volte fanno capo agli stessi rivenditori ufficiali. Ma dopo il caso dei concerti dei Coldplay e di Ligabue e dei biglietti spariti nel giro di poche ore e poi rivenduti fino a 16 volte il prezzo originale, le associazioni dei consumatori sono scese sul piede di guerra e anche la SIAE ha presentato un ricorso al Tribunale Civile. Ma come è possibile che avvenga tutto questo? Se lo domanda Fabrizio Galassi in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, che poi prosegue. Facile! I bagarini digitali hanno dei programmi specifici grazie ai quali riescono a creare utenti multipli in grado di acquistare un numero imprecisato di biglietti, per poi metterli in vendita sui siti secondari come ViaGogo e SeatWave a prezzi astronomici. Lo staff di Ligabue però vuole evitare lo sciacallaggio dei biglietti rivenduti. Quindi l'agenzia che organizza i concerti, FMP Group, e la società di management dell'artista di Correggio, Riserva Rossa, hanno deciso di tutelare il proprio pubblico dichiarando guerra al mercato secondario. Come? Mandando un messaggio chiaro, quasi autoritario, ai fan del Liga. Non comprate i biglietti dal mercato secondario. Se lo fate, possiamo negarvi l'accesso al concerto, oltre a denunciarvi per incauto acquisto o truffa, ai danni del circuito di vendita, indicando Ticket One come unico luogo ufficiale. In tutto questo caos, molti sono i dubbi. Come fanno FMP Group e Riserva Rossa a sapere quali biglietti sono stati acquistati su Ticket One e quali su ViaGogo? Se ViaGogo e SeatWave hanno già acquistato ingenti numeri di biglietti da Ticket One, cosa ne sarà di quei posti? Rimarranno vuoti? Perché Ticket One non adotta la stessa tecnologia di ListTicket, sua controllata, e non applica al tagliando il nominativo o i nominativi dei veri proprietari del biglietto come accade nel calcio? In questa maniera si ridurrebbe drasticamente il problema e il mercato secondario tratterebbe solo poche centinaia di biglietti, perché il bagarino digitale dovrebbe modificare il nominativo su tutti i tagliandi. Abbiamo cercato di contattare Ticket One, FMP Group e Riserva Rossa per capire quali strumenti adotterebbero e quali sono le difficoltà strutturali, ma senza successo. Quindi ci siamo rivolti all'estero per verificare quali rischi si corrono, ad esempio, per obbligare il rivenditore ufficiale, in questo caso Ticket One, a stampare il nominativo dell'acquirente direttamente sul biglietto. Per i concerti normalmente non ci sono tagliandi nominali, ci spiega Marta Bernasconi, responsabile di comunicazione TicketBis Italia, piattaforma secondaria spagnola che opera in Italia dal 2011, recentemente acquistata da eBay. Ma viene proibito l'acquisto di più biglietti per singolo utente. Per esempio, può essere che per un concerto il massimo di tagliandi permessi per persona siano 4, oppure altri casi in cui possono essere 6 o 10. Il problema in questo caso è del mercato primario. Se gli utenti trovano il modo di acquistare più tagliandi di quelli stabiliti, è un problema di competenza dell'organizzazione o della rivendita ufficiale. Quindi, il mondo del calcio come punto di riferimento per il mondo musicale. E il risultato è abbastanza chiaro analizzando la media dei prezzi dei biglietti rivenduti su TicketBis. Per una partita di Serie A dei top team come Roma, Juventus, Inter o Milan, il prezzo medio è di 98,50 euro a biglietto. Per i concerti si arriva, sempre in Italia, a 137 euro di media per tagliando. Invece di criminalizzare questi servizi e gli utenti che li utilizzano, gli organizzatori di concerti e le autorità potrebbero iniziare a collaborare con il mercato secondario per individuare evidenti illeciti. Ma attenzione alle sorprese, come ad esempio il caso Live Nation Seatwave, entrambi della stessa proprietà. Il primo, rivenditore ufficiale. Il secondo, rivenditore secondario. Il problema principale si presenta nel mercato primario, che non sempre ha la capacità di controllare gli acquirenti, chiude la Bernasconi. Un utente che rivende X biglietti è perché ha potuto acquistarli. Allora ritrattiamo. Invece di criminalizzare questi servizi e gli utenti che li utilizzano, gli organizzatori di concerti e le autorità potrebbero iniziare a collaborare con il mercato primario per individuare evidenti illeciti. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Fabrizio Galassi, Tutti contro i bagarini virtuali, o forse no, da Il Fatto Quotidiano del 13 ottobre. Amazon ritira dal commercio il sexy burka, ma trova normale vendere la suora sexy. Ancora una volta il politicamente corretto e il rispetto per le religioni mostrano un doppio standard, come racconta Giulio Meotti in un editoriale pubblicato sul Foglio. Nei giorni scorsi, sul più grande portale commerciale del mondo, Amazon, sono apparsi i primi costumi di Halloween. Una delle novità del 2016 è il sexy burka, la palandrana tipica dei talebani, dello Stato Islamico e dei potentati sunniti, per provare l'ebbrezza di essere una schiava del sesso. Ma il sexy burka, che su Amazon.uk era in vendita a 18,99 sterline, è scomparso in grande fretta. Amazon, il colosso di Jeff Bezos, ha disposto che la vendita diventasse unavailable, non più disponibile. Amazon è stato subissato di proteste, accuse di razzismo, islamofobia, di commercializzare un indumento islamico con il volto bianco di una modella occidentalista, di usare un oggetto religioso a fini commerciali. Siete disgustosi. La mia cultura non è il vostro costume, hanno scritto tanti utenti di fede islamica. E ancora, la cultura di una persona non è un costume divertente. Altri hanno usato un tono più serio. Chiunque tu sia, devi temere Allah. Questo non è uno scherzo. Un portavoce di Amazon ha risposto prontamente ai clienti. Tutti i nostri venditori devono seguire le nostre linee guida e coloro che non lo fanno saranno soggetti a un'azione di rimozione. Questo prodotto, quindi il sexy burka, non è più in vendita. Dunque, niente parodia del principale simbolo globale di oppressione della donna. Ma nella sottomissione si insinua il doppio standard. Che dire infatti della suora sexy, l'abito di Halloween che anche quest'anno sbeffeggia le religiose cattoliche e di cui è in vendita un'ampia gamma, con la Bibbia in mano e le gambe aperte, il crocifisso sul petto e la guêpière sotto. Nonostante le proteste cattoliche, la sexy suora è rimasta in vendita su Amazon. Non era questa una forma di cristianofobia? Non c'era forse sotto quell'abito pudico una modella bianca? Non è forse anche quello un oggetto religioso a fini commerciali? Questo doppio standard delle élite liberal era già emerso quando il New York Times, per rispetto nei confronti della fede islamica, aveva deciso di censurare le vignette su Maometto del settimanale satirico Charlie Hebdo, salvo poi decidere, stavolta in totale mancanza di rispetto, che si poteva pubblicare l'opera Eggs Benedict di Nicky Johnson, esposta al museo di Milwaukee e in cui 17.000 profilattici formano il volto di Papa Benedetto XVI. Il califfo al-Baghdadi, ridicolizzato da Charlie Hebdo, fa scattare l'autocensura per hate speech, mentre l'opera di Chris Ofili, La Santa Vergine Maria, in cui la madre di Gesù è ricoperta di feci e genitali, quella è tutelata dal free speech. Se a protestare è un imam, si sospetta di lesa islamofobia. Se a protestare è un vescovo, si glissa in nome della libertà di espressione. Per fermare il sexy burka si è schierata anche l'organizzazione Do Something, Fai Qualcosa, che ha promosso la campagna I Star for Hate, che prende di mira i rivenditori online di costumi ritenuti offensivi. Il gruppo ha stabilito un premio di 1.500 sterline per la persona che riesce a spalmare sui retailer più recensioni negative. L'anno scorso misero gli occhi sul costume omofobo alla Caitlyn Jenner. Quest'anno hanno fatto ritirare il perfido burka. Quanto alla suora, la notte di Halloween è una tana libera tutti. Quello che avete ascoltato era l'articolo di Giulio Meotti, Amazon teme l'Islam, dal Foglio del 12 ottobre.